Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Attaccare! Ma devi gridarlo forte. Attaccare! Quindi prova a sentire se ti sentono. Attaccare! Più forte! Più forte, perché è nello stadio! Attaccare! Ma dai, più forte! Attaccare! State a vedere! Attaccare! Noi abbiamo le epidemie vere. La scabbia, che si prende non respirando, ma abbracciandosi. Non credo che Salvini voglia andare in stazione, o adesso non c'è più nessuno, ma insomma, ad abbracciare e a prendere una malattia che è una malattia dermatologica, una malattia della pelle che si cura nel giro di con una pomata. Con Renzi che poi va da Vespa, porta a porta, fa il fenomeno, sorride, dice ma sì, cosa vuoi che sia, la scabbia la curi con una pomata. Questo è veramente pericoloso. Ma dire epidemia di scabbia è dare un messaggio di dire aiuto, stiamo morendo tutti. Ti dà il sorriso del futuro, ci saranno i trattori, ci sarà, mi hanno detto che ci sarà una mega ruspa. Sì. Siete seconde di guidare. Di guidare la no, una bella ruspona. Ci saranno le magliette a grande richiesta delle ruspe in azione, in migliaia di copie, anche quelle per i bimbi. Io me li vedo già, Mattia, Angelica e i miei due bimbi con le magliettine delle ruspinazione, Salvini, la magliettina della ruspa. Ma adesso bisogna stare attenti a regalare a un bambino una ruspa, cioè, perché è bello, no? È il tipico gioco, uno entra magari, mi dà una ruspa. Adesso bisogna farlo, so, entrando un po' di soppiatto, senta, c'è mica una ruspa, però non lo dica, ma vorrei regalare una ruspa. Ma... No, ma sa, da mille anni si regala una ruspa ai bambini. Ormai bisogna stare attenti ai simboli. A proposito di simboli, questa cosa del muro, il muro, tutti titolano il muro, l'Ungheria ha annunciato faranno un muro al confine tra l'Ungheria e la Serbia, un muro, un lungo muro, lungo il 150-170 chilometri di confine, Muro Nostrum, titola il giornale, siamo dalla parte del muro sbagliata, titola Libero, e gli annunci il muro. Ma a nessuno è venuto il sospetto che sia una minchiata questo annuncio del muro? Sapete, lì c'è un premier Orban che ne annuncia ogni tanto così, ma lo faranno secondo voi questo muro? Boh, io ho dei dubbi. Per ora hanno annunciato che vorranno fare un muro, una roba un po' strana, certo. Attaccare! Non so se sono pronto per allenare il Milan, secondo Berlusconi, con questa... Però è bellissima. Attaccare! Questo dovrebbe, secondo Berlusconi, dire Inzaghi quando era allenatore del Milan. Va bene. Sono le 6:32 minuti, ci svegliamo sulle note del Vapensiero. E come dire, questo è 24 mattino, c'è un evento clamoroso qui in redazione. Lorenzo Respoli si è tagliato la barba. Da uomini e donne è tornato, insomma, Raul Bova dei Noantri adesso. E... si è tagliato la barba, comunque. Mentre Carmelo Larucella, che è lì in regia, è lì col suo bel barbone ancora in vista. Siamo... ce l'avete la maglietta con le ruspe voi? No? No. Sono sicuro che qualcuno qua ce l'ha, dei nostri ospiti. Dobbiamo aprire il Parlamento e dobbiamo salutare i nostri ospiti. Una soprattutto, devo dire, do la precedenza a una perché... Vado a prendere un caffè. puntata, quindi se mai ci vediamo. È la sua prima puntata qui a 24 mattina al Parlamento, come dire, dopo essere stata coniugata, portata all'altare, sposata. Sarà la nostra Aurora Lussana. Più forte, Milan, attaccare! Più forte. Eccolo. Buongiorno, buongiorno a te, Milan. Come va? Agli amici di Radio 24. Sei felice? Migranti e non. Molto, molto, molto, molto. Sei molto. Sposa? Sono finalmente una donna onesta. La signora Molteni. Basta. Ebbene sì, la nostra Aurora Lussana, ho visto le foto, ti ha lanciato i fiori, ti ha lanciato i confetti, ti ha lanciato il riso, dai, i confetti no. Com'è andata? Tutto bene? Una benedizione, sì. Chi è che si è comportato meglio al ricevimento? No, guarda, è stata veramente una benedizione del Signore quella giornata. Bene, evviva. Sì. Evviva. Una grande festa, tanta gioia, insomma. Tanta gioia. E guarda, lo rifarei domani mattina. Oh, che bello! Cioè, nel senso che ti separeresti e lo rifaresti con un altro? Chiuderei domani mattina. Bello. Bene. È stato un percorso faticoso, no, per quanto fare il corso per fidanzati, no, devi studiare. Sì. C'erano le ruspe? Sei arrivata su una ruspa? La ruspa mi ha aspettato poi al ristorante, sì. C'è già chi ci scrive di essere, eccolo lì, di essere in lutto, va bene, ma comunque insomma Aurora Lussana si è sposata, lasciate ogni speranza a voi che l'avevate. Ma su, dai. Oh. Fai la brava. Ti presento, cara Aurora Lussana, a proposito di migranti e non. No, non c'entra niente, ma insomma, Chiara Geloni, la Geloni. Lei sa che è importante parlare alla gente. Eh sì, è chiara. È chiara. Tanti auguri. Grazie alla sposa. Tanti auguri alla sposa. Auguri alla sposa, si può fare, anche se anche lei metterebbe su un muro, Chiara, sappilo. Lo so, ma invece io lo abbatterei e quindi. E va bene. E poi vi ritrovate, vi abbracciate. Una mette sul muro, l'altra l'abbatte. Ma i muri si sono sempre costruiti per proteggere. Non so se è presente a Roma. Ci sono delle mura meravigliose, le mura mi pare vaticane. Sì, le hai mai viste? Che belle. Anche a Milano c'erano le mura. Nel Medioevo c'erano i barbari, a me mi hanno sempre colpito molto queste mura vaticane. Sì, invalicabili. No? Sono un po' datate, come dire. La città del Vaticano ha delle mura invalicabili, o sbaglio? C'è anche le guardie svizzere. Invalicabili. C'è una piccola frontiera spaziali. No, ma l'ha subito buttata sul Vaticano. Chiara, l'ha subito buttata sul Vaticano. Adesso la Lega ce l'ha col Papa e quindi. No, Papa Francesco rappresenta una religione di amore, di accoglienza trascendente, la vera salvezza. No, dillo anche tu, dai, quanti ne ha accolti in Vaticano? Dai, no, però prego, quando la Chiesa si fa Stato, si fa diritto, non è più trascendente ma diventa realtà, costruisce, come avevi visto, dei bei muri invalicabili, l'accoglienza diventa limitata. Guarda che ti facciamo mandare una scomunica immediatamente dalla Sacra Rota. Veramente, se posso fare un'obiezione teologica. Sì. Papa Francesco rappresenta una religione che crede in un Dio che si è fatto uomo e quindi non si può essere cristiani senza amare anche gli uomini fino in fondo e senza una umanità profonda non si è veri cristiani, credo sia questo che dice il Papa. Cattolici, un conto essere cristiano, un conto essere cattolici. Oh, guarda, sì, forse queste sottigliezze teologiche. Ma che sottigliezze? No, io ho fatto i salesiani, ma mi sento un po' in difficoltà in questo momento. Non è proprio, vabbè, si può essere cristiani e non cattolici, ci sono tantissime persone cristiane non cattoliche. Sì, ma non ho capito cosa vuol dire questa obiezione. Ma era per andare contro il Papa. Ma no, è che no. Ogni scusa è buona per una leghista per andare contro il Papa. No, scusa, basta aver fatto catechismo per capire che non sempre, insomma, voglio dire, non è che coincide cristiano e cattolico. Ma che significa? Ma come che significa? Ma che significa? No, che fregartene, che puoi fregartene di chi muore di fame accanto a te. Eccolo lì. Visto che fa la teologa, è arrivata la Geloni che fa la teologa. Io capisco che il PD è in che... No, io capisco... No, allora, io capisco che con Renzi trasforma, Renzi uno... Cioè avete questo bipolarismo, non sapete più... Ma però non dare alla Geloni della renziana, tra l'altro. Stai... Perché sennò dopo si innesca... È la più grande offesa che le posso fare. Esatto. No, ti chiedo scusa, Chiara, perdonami, non volevo darti della renziana. No. Figurati, va bene. Ruspenazione. No, però vabbè, adesso c'è questa cosa del allora il muro. Intanto lo farà Chiara Geloni, ma sai che questo presidente Orban è un po' un matto, insomma. Ma lo farà, infatti. Lo farà. Ha detto che lo farà, se non altro per ragioni, diciamo, di propaganda, di immagine rispetto all'opinione pubblica del suo paese. Se ha detto che lo farà, lo farà. Per fortuna i muri si sono sempre fatti e poi sono sempre crollati, del resto nel cuore dell'Europa ne sappiamo qualcosa. Ma sì, non si fermano. Ne ha costruiti tanti. Chi ne ha costruiti tanti? I comunisti. Ah, i comunisti, sì. Ecco, sì, adesso ci mancavano i comunisti. Non si ferma la storia con i muri, per fortuna. E non più la forte, Chiara, più forte. Vabbè, è così, la è così. Attaccare. Attaccare, esatto. Attaccare! Oh, più forte. Vabbè, Mauro, ma cosa ci avete? Ma anche sta storia della scabbia, cioè un pochino di terrore. Dai, lo state spargendo, voi della Lega, un pochino, No. Se ti piace la scabbia. Ma non mi piace la scabbia. Ma nessuno piace la scabbia, dai. Su. Mi piace la scabbia, Milan, dillo. Mi piace la scabbia, sempre trovata affascinante la scabbia. Ma no, dai, però vabbè, la verità è che il dibattito ormai è su questo, cioè su questa cosa dell'immigrazione. Però quando hai sentito Salvini dire fossi Renzi sarei a discutere con le tribù della Libia, l'ho sentito da Lilli Gruber così, sarei domani a discutere con le tribù della Libia, andrei lì. Cioè mi sembra un po' che ci siano delle dichiarazioni, Aurora. Io ce lo manderei. Ecco, figurarsi. Ma a proposito, ma è venuto poi al matrimonio? No, non è venuto. Certo che è venuto. Ah, è venuto? C'era anche certo che è venuto, sì. Sì. Vabbè. È una grande famiglia. Va bene, ha cantato. Prima mi pare che è andato a fare un gazebo, poi è arrivato. Prima il gazebo e poi il matrimonio dell'Aurora. Vabbè, dai, questa cosa è così, è un dibattito che ogni giorno si ripropone nello stesso modo sulle... Ma cosa avete esattamente con il Papa? Cioè, perché ha detto che bisogna includere, cosa doveva dire il Papa? Ma io capisco che tu sei per il cesaropapismo, nel senso... No, io no. No, nel senso... No, voglio dire... Io ho l'unica fede, il Milan, ecco, e vacilla a volte anche quella. Dio, padre e famiglia, con Mihailovic, mi sa, tra l'altro. Sì. No, diciamo che il Papa può dire e fare ciò che vuole e i cittadini del nostro paese credo che chiedano solo la difesa dei nostri confini. Sì. E come ripeto, come giusto che sia, si devono costruire muri. Io non credo, mi auguro che non si debbano costruire muri, mi auguro che l'immigrazione venga regolata e controllata. L'Europa se ne frega perché la rogna dell'Italia e quindi l'Italia continuerà a subire questa invasione. È una scelta politica. Quello che ho detto ieri, ribadisco da giorni, è che noi da 20 anni non abbiamo una politica seria per gestire questi fenomeni, ma destra, sinistra, tutti. Questo è vero, questo è assolutamente vero ed è incredibile per un paese di confine, anche se di mare, come l'Italia. Oh, ci chiedono il trota c'era. No, l'abbiamo già detto, non è molto simpatico. La Lussana, quindi il trota non c'era al matrimonio. Ma c'è questa passione dei tuoi telespettatori per il tuo matrimonio? E t'abbiamo seguito tutto. Cioè, per il trota, no, nel senso. Ma che fine ha fatto? Cioè, tu ci puoi dire qualcosa del trota? Che fine ha fatto? Allora, credo che lavori in un'azienda agricola. Sì, certo, questo sì. L'avevamo sentito, ma non è più comparso, non ha mai fatto una mezza dichiarazione, mezza intervista. No. Vabbè. Lorenzo ci chiede: Aurora, ruspiamo? No. non lo so. Beh, insomma, vabbè, dai, la ruspa è una roba molto maschia. Va bene, molto maschia. L'hai mai guidata una ruspa, Milan? No, non sono capace, sì, di guidare una ruspa. Adesso ripeto, sono nel dramma perché non posso. Tu, Chiara, regaleresti adesso a un bambino una ruspa, Chiara Geloni? Neanche prima, ma dai, una magari. Ruspa è uno dei giochi più belli. No, le macchinine, ma sì, dai. Non mi è mai venuto in mente di regalare a un bambino una ruspa. Sì, ma sì, no. Sì, dai, no, figurati, guarda che sono giochi che apprezzano. Il prossimo compleanno di una, guarda, l'apprezzo. Certo, entra nel negozio in maniera un po' di soppiatto perché. Perché un lavoro di grande dignità ti darà, ma certo, però ti daranno della leghista. Insomma, attenzione, però devo farvi sentire un audio incredibile di Renzi a porta a porta. Non c'è dubbio che mi diano della leghista. Un audio di Renzi a porta a porta, ve lo devo fare sentire perché sapete che qua contiamo le settimane decisive per l'abolizione delle province. Siamo alla settimana numero 111, decisiva di questa legislatura. Ma Renzi dice che, udite, udite, non potendo eliminare le province tout court, no, abbiamo detto le province rimangono, ma sono, ma come, termine tecnico. Le province avete fatto un po' di casino, ma no, Vespa, ma abbiamo tolto, ma come province, rimangono, non è possibile, capito, che Italia... ma non avete tolto le province poi, scusi Vespa, le province non le puoi togliere d'amblè, perché no, chi gestisce le strade nelle le province, ma quindi non chi è vero che l'hanno tolta, ma io sono 111 settimane, porcaccia di quella miseria, che dico che non le hanno abolite. Adesso il Presidente del Consiglio, dopo dire abbiamo abolito le province, dice non abbiamo abolito le province, ma porca di quelle, ma guarda te, ma guarda te come è fatta la vita, come è fatta la vita, mannaggia. Però c'è un po' di giustizia, no? Devo dirti una cosa, sì. Milan, tieniti forte. Mi tengo forte. Anche il Senato, no? Sì. Aveva detto che lo aboliva, non ci sarà, porcaccia di quella miseria, non, ma io non lo so, ci saranno 100 senatori abbarbicati peggio di Marino la poltrona. Vabbè. Ma finché non fanno il gioco alla PlayStation, abolisci le province, come fa a abolirle? Ah, è vero, potrebbero fare. Poi se vince Orfini, rimangono le province. Certo. Se invece vince Renzi, aboliscono le province. Però mi è piaciuto Vespa che dice. Avete fatto un po' di casino. E lui, ma no Vespa, ma figurati, non le abbiamo abolite, ma non puoi abolire, ma come non le puoi abolire? Ma io è 111 settimane che conto come un coglione e qui, vabbè, succede. Lussana, sindaco di Cantù, subito. Questo è il messaggio che ci arriva al 349-238-6666. Facciamo un bel muro a Cantù. Ma il muro, il famoso muro di Cantù. Il famoso muro anti Scabbia di Cantù. Mi però chiamiamo una ditta di Bergamo a costruire un bel muro a Cantù. Loro sono bravi a fare i mobili, sono divenute aperte. Sì. Va bene, andiamo a sentire il traffico perché poi ci sono altre cose da far sentire. C'è anche Michelle Obama. Il senso di Michelle Obama per un viaggio nell'Italia e nell'Expo. Non abbuffatevi, mangiate verdura. Porca miseria. Amore, ma che fai? Sai benissimo che a quest'ora io voglio solo il traffico. 24 mattino. Forse Renzi non ha ancora capito una cosa, che quello che gli si sta riversando contro è il mondo del lavoro. Quello che lui ha tolto l'articolo 18, ha fatto licenziare migliaia di persone, invece non ha tolto una lira alla gente che percepisce 10-12 mila euro di pensione al mese, dei cosiddetti politici d'oro, stipendi d'oro. Non ha fatto niente di tutto questo, quindi questo lo porterà alla disfatta sicuramente. Basta. Dopo questa faccio le valigie. Addossare a Renzi e al suo governo la gestione caotica di questa emergenza è pura cattiveria, è pura cattiveria. Ma che hanno questi francesi contro la Nutella? Questi che sono dei mangiatori di rane, hanno dei formaggi che io ho provato e non sono nient'altro che cibo avariato. E visto che gli piacciono tanto le ostriche, ma perché non gli mandiamo per regalo a Ségolène Royal un bel plateau di ostriche di quelle che crescono sugli scogli a Mururoa? Abbiamo anche la comunista di sinistra, là, che la giornalista, che non parlo poco crovelle, come i comunisti di una volta, la direttrice dell'unità, ma quale unità? temo, pur non avendola citata, che questo nostro ascoltatore appassionato ce l'avesse con la Chiara Geloni. Comunista, me. Comunista di sinistra. Io. Comunista di sinistra. Quindi è comunista di sinistra. Quindi, cos'è? Un ultra. Ingraiana. Sì, un ingraiana adesso. Ultra, iper, super comunista, una comunista di sinistra. A proposito, l'Unità ritorna in edicola il 30 giugno. Evviva, auguri, bene. Sono felice. Bene, che ci fai Chiara Geloni qui? Chiara Geloni, direttrice dell'Unità. Ma no, ma adesso di fronte all'evidenza ti sei convinto che... Sì, mi sa che non ce l'abbiamo fatta fare questa battaglia. Ma chi sarà il direttore? Sai che sarà uno di massa? Pensa un po'. Uno di massa, invece cioè tu sei di Carrara? No, vabbè, ma questo è uno sfregio. No, vabbè, ma dai, ma noi abbiamo quindi fatto. Sei andato vicino, dai. Noi abbiamo fatto la campagna per mettere la Geloni, che è di Carrara, credo direttore. Che sia stato un po' un dispetto a te. E ha messo uno di massa, cioè come mettere, come fare la campagna con uno di Pisa e mettono uno di Livorno. Forse peggio. Come mettere, che ne so, uno di Bergamo al posto della. No. La Russana è di Bergamo, uno di Brescia invece che no? Le tue battaglie Milan finisco sempre male. Sì, infatti è un disastro. Questo comunque, ti fa capire. Auguri. Vladimiro Frulletti si chiama. Sì, Vladimiro Frulletti. Anzi, si chiama Vladimiro Ilic. Questo lo dico per l'ascoltatore. Ah, ma spero che questo sia uno scherzo. Si chiama, no, vedete che la mamma e il papà erano devoti all'Unione Sovietica. Si chiama veramente così, Vladimiro Ilic. Oppure erano spiritosi, dai, si chiama così. Mi offro come amante per la neosposa, Stefano ci scrive, oppure se si candida Cantù, sposto, e questo è Enzo da Latina, ti segue con grande passione, sposto la residenza e voto per votarlo. Allora, voi siete amante della Nutella? Dai, potete dirlo. Aurora? Preferisco pane e salame alla Nutella, però no, è un prodotto straordinario, eccezionale. Mamma mia, ma c'è Ségolène Royal, ha dovuto chiedere scusa su Twitter, ma vi rendete conto? Cioè, il faut arrêter de manger du Nutella, par exemple, parce Nutella, que c'est l'huile la de Nutella, palma. Beh, oui, mais il faut pas. Voilà, la migliore, la migliore risposta è stata dell'intervistatore, ma è buona la Nutella? Ma cosa sta dicendo? È buona Nutella? Vabbè, ha dovuto chiedere scusa, mentre avete visto che c'è Michelle Obama che è qui all'Expo e dice mangiate verdura, non abbuffatevi, le grandi lezioni di gastronomia e di educazione alimentare di Michelle Obama. It's something that even as busy as we are in the White House, we've preserved our family dinner time. Ah, no matter what the president is doing, between 6:30 and 7 o'clock, he stops. Hai capito? Tra le 6 e mezza e le 7, qualunque cosa stiamo facendo, noi preserviamo il momento della cena tra le 6 e 30 e le 7. Beh, sono americani. E questo... loro mangiano. E preserviamo questo momento della cena, cioè tutti seduti lì insieme a Malia, Sasha, come si chiama l'altra? Tutte Sasha e Malia, e vabbè. Ma sai che per gli americani questa cosa della cena in famiglia, che noi adesso ci sembra una cavolata, è importante. No, non è che è importante, è che ci sono ragazzi, studenti, gente di 20 anni, sì, che non ha mai sperimentato l'esperienza di cenare seduto al tavolino con la sua famiglia. No, ragazzi di 20 anni, ma dove me li l'ha detto, ti giuro, me l'ha detto un mio amico italiano che insegna negli Stati Uniti proprio ieri. Non c'è più questa cosa, cioè la gente, uno arriva a casa, ha fame, apre il frigo, nessuno cucina più negli Stati Uniti. Si mangia solo cibo preparato, sì, e chi ha fame apre il frigo e mangia, si siede davanti alla TV e mangia. Quindi non c'è più il momento della cena, questa cosa che sta dicendo Michelle, è una cosa che non è assolutamente scontata per moltissime famiglie americane. È vero, era il loro progresso, no? Adesso ritorniamo ai riti arcaici, ancestrali, i nostri rituali dimenticati, perduti, travolti dal turbocapitalismo americano, adesso devono tornare indietro. Eccola, la lettura turboleghista. Però è vero, no, ha ragione quello che dice la Geloni, è vero, vero. Vabbè, va bene, quindi cos'è? Cose ancestrali, cioè tutto per dire una cena. No, ma questa ritualità del pranzo, della cena, la condivisione del cibo è qualcosa di straordinario che rimanda alla madre terra. Vedo che cita la quinoa, quindi mi auguro che insomma si è mangiato la quinoa, ha detto andina, no, visto che gli americani insomma quella tradizione andina non è mai andata d'accordo, insomma mi auguro che ci sia rispetto

bisogna che ciascuno si faccia carico di una quota parte di queste donne e di questi uomini. Se invece lo lasciano a noi, noi ne prendiamo atto. Se vuoi davvero risolvere il problema, devi andare in Africa a risolvere il problema, e ci vogliono mesi. Risponde invece Salvini, la polemica è quella col Papa, eh? Papa Francesco, chiediamo perdono per chi chiude la porta ai rifugiati. Infatti ce ne sono in Vaticano i rifugiati? Tenetele lì queste le domande, eh? Ne parleremo più avanti. Ora vogliamo tornare su un nostro cavallo di battaglia, se volete ne parliamo spesso, l'abusivismo edilizio, o in un paese corretto andrebbe detto la lotta all'abusivismo edilizio. Questa volta al centro delle polemiche è finita la Sicilia, in particolare è finita una circolare firmata dall'assessore regionale al territorio Maurizio Croce, che nei giorni scorsi di fatto ha riaperto i termini del condono del lontano 2003, governo Berlusconi, per 30.000 case. La vicenda, per la verità, è un po' complessa, è una circolare che annulla una precedente circolare di segno contrario, che a sua volta ne annullava un'altra di segno contrario, firmata ancora prima. Insomma, il succo della vicenda però è questo: in Sicilia avete riaperto i termini per il condono del 2003. Assessore Croce, buongiorno. Buongiorno. È questo il dato di fatto, al di là di tutte le questioni tecniche. Perché lo avete fatto? Perché lei lo ha fatto? Lo abbiamo fatto perché abbiamo soltanto preso atto di 30 sentenze del CGA che ci facevano soccombere davanti a dei ricorsi di privati. E quindi l'abbiamo dovuto riprendere come atto dovuto. Cos'è il CGA? Ci perdoni, ci faccio. Il CGA è l'equivalente del Consiglio di Stato in Italia, in Sicilia, il Consiglio di Giustizia Amministrativa. Perfetto. Il secondo ordine della giustizia amministrativa. Cioè avete dovuto riaprirlo perché c'erano cause che pendevano, 30.000 ricorsi. No, che non pendevano, le abbiamo perse. Ah, perse, che il Consiglio di Giustizia Amministrativa aveva dato ragione a questi cittadini, e quindi voi o soccombevate di ricorsi oppure avete dovuto fare così. Assolutamente sì. Che cosa vuol dire questo in termini pratici? 30.000 persone possono sanare il loro abuso? 30.000 persone che avevano già fatto istanza di una sanatoria entro il 2003, le amministrazioni comunali oggi sono titolate a poter istruire queste pratiche di sanatoria. Non vuol dire che vengano sanate, no, è chiaro. Vuol dire che vengono istruite. Vengono istruite, potrebbero essere respinte, potrebbero essere sì. Accolte. Senta, assessore, lei lo sa bene che insomma l'Italia già è un paese che questa problematica l'ha ben evidente. La Sicilia è una regione che all'interno dell'Italia l'ha forse ancora più evidente. È vero che pendono 770.000 domande di sanatoria già in Sicilia, leggevo su Repubblica nei giorni scorsi. Questo non mi risulta, non glielo saprei dare questo dato. Più o meno, però. Non credo ci siano questi numeri, però è un dato che va verificato. Le posso dire che le stanze di sanatoria entro il 2003 sono 30.000, questo glielo confermo come dato, distribuite su tutta la regione. Quelle di sanatoria in assoluto, che siano 770.000, non è un dato che io conosco. Non è un dato che lei conosce. Però che effetto fa? Cioè, perché sa, parlare di sanatoria, lei dice, beh, l'abbiamo dovuto fare perché c'erano sentenze che altrimenti ci condannavano. Sì, ma guarda, io parto da un dato, bisogna partire da un dato di fatto, che è la realtà di oggi. Ad oggi queste costruzioni di cui è stata presentata istanza di sanatoria esistono, quindi di scempio ambientale vogliamo parlare, lo scempio ambientale oggi è esistente perché le costruzioni sono costruite. L'amministrazione ha due strade: o fa le ordinanze di demolizione perché per esempio, cosa che appunto le amministrazioni comunali, 30 amministrazioni comunali l'hanno fatto nei confronti dei privati, hanno fatto 30 ordinanze di demolizione per oppure sanare. E lei quale delle due strade preferisce? Io prediligo l'ordinanza di demolizione, cioè io non sono pro abusivismo, io sono contro l'abusivismo, però se oggi davanti a un'ordinanza di demolizione un privato ricorre e vince la causa e quindi comunque non demoliamo la costruzione e la costruzione comunque resta lì e quindi lo scempio ambientale comunque lì dobbiamo per forza di cose riportare il procedimento amministrativo nella buona amministrazione. Sì. Certo, assessore, non è chiaro, una delle solite questioni che viene posta è questa: almeno con la sanatoria i cittadini si mettono in regola, saniamo un abuso e la regione, se viene accettata, incassa anche un po' di soldi. Però su questo, assessore, mi permette di presentarle un ospite che spesso è con noi su questo questi temi il professor Paolo Berdini, urbanista, autore del libro l'anno scorso Le città fallite. Buongiorno e ben ritrovato, professor Berdini. Buongiorno a voi, buongiorno. Lei proprio sui soldi ha detto che poi non è così, cioè i vari condoni e le varie sanatorie nei decenni non hanno portato un beneficio economico per l'Italia. Hanno portato al contrario al tracollo della finanza pubblica del nostro paese, cioè se noi oggi paghiamo la crisi in maniera molto più violenta che gli altri paesi europei è perché abbiamo strizzato l'occhio a questo fenomeno dicendo che comunque tutto tornava e tutto andava bene. Poteva andar bene quando c'era una spesa pubblica imponente, quando abbiamo dilapidato le risorse pubbliche. Oggi che non ci sono più i soldi, in ogni zona abusiva, la Sicilia in primo luogo, e i condoni, confermo, sono 800.000 domande in Sicilia. Non fanno opere di urbanizzazione, quindi noi condanniamo una parte della nostra popolazione che non solo ha fatto uno scempio, dunque non è proprio il massimo per il paese più bello del mondo, ma noi li condanniamo a vivere senza acqua potabile da acquedotti, senza fognature, perché questa è l'Italia, non solo al sud ma anche qui. Però professore, certo, che dice l'assessore Croce, ci sta dicendo noi non potevamo far altro che prendere atto di sentenze che avevamo perso di fronte al Consiglio di Giustizia Amministrativa e quindi che potevamo fare? Beh, qui ci sarebbe da andare a vedere, se posso dire all'assessore, perché si può ricorrere ancora in giudizio, si possono trovare delle normative che superano quell'appello vinto dai privati che ha visto la pubblica amministrazione soccombente, cioè le strade, no, della bravura dei nostri avvocati sono tante. Certo, se noi prendiamo magari i peggiori e li paghiamo pure profumatamente, poi non possiamo lamentarci. Però qui c'è sempre il vizio di fondo. Comunque l'abusivismo può essere tollerato perché fa parte del costume nazionale, non è così, al nord Italia non c'è abusivismo, quindi c'è un pezzo del paese che rispetta le regole. Evidentemente noi accettiamo che il paese sia diviso a metà. Assessore Croce, ha sentito, vuol rispondere al professor Berdini, che è uno dei massimi esperti in Italia su questo tema, e poi le faccio anch'io un paio di domande. Per esempio l'aspetto politico: perché Crocetta, governatore della regione, ha detto io non ne sapevo nulla, ha fatto tutto l'assessore Croce? È così intanto? Guardi, è così intanto, glielo confermo. Io l'ho detto più volte che il governatore, il presidente della regione, non era a conoscenza di quest'atto, perché si mette a conoscenza il governatore di un atto quando l'atto è anche di natura politica. Quest'atto non lo ritengo un atto di natura politica, è un atto di natura prettamente tecnica, limitata alle competenze dell'assessorato che io dirigo, e prendiamo atto di alcune sentenze del Consiglio di Giustizia Amministrativa. Sì. Condivido quello che dice il professor Prendini, nel senso che se esistesse e se il Parlamento siciliano, l'Assemblea regionale siciliana, avesse nelle more fatto una norma che in qualche modo superasse questo problema di interpretazione del recepimento della norma Berlusconi, evidentemente la circolare non sarebbe stata fatta. Ho capito, ma lei è d'accordo con il professor Berdini? Ma faccia ricorso, come ha detto, faccia fare ricorso, prenda il migliore avvocato. Allora, il Consiglio di Giustizia Amministrativa è l'ultimo organo di giustizia amministrativa che noi abbiamo in Sicilia. Faccia delle norme che superino. In Italia si fa di tutto. La norma di interpretazione autentica della 326 del 2003, del recepimento della 326 del 2003, è da 2 anni che giace in Commissione Ambiente all'Assemblea regionale siciliana. Questo l'ha detto l'onorevole Trittino, che è il presidente della Commissione Ambiente dell'Assemblea regionale siciliana. Quindi non è una volontà del governo, è una volontà dell'Assemblea regionale. Lei dice dal punto di vista delle armi legali è tutto spuntato, però Berdini ci ha detto legale, né dal punto di vista delle armi normative. Però che risponde a Berdini? Certo, che ci dice che esistono due Italie, che al nord gli abusi non si fanno tante quante al sud, al centro-sud. Beh, questo è un dato evidente, è così, cioè, c'è un abusivismo sul centro-sud che chiaramente ha dei valori molto più elevati rispetto al centro-nord. Questo a cosa sia dovuto oggettivamente non glielo so dire, le dico soltanto che ad esempio le faccio il caso della Sicilia. Noi abbiamo una regione che per il 90% è vincolata, ha dei vincoli sul territorio regionale di varia natura. Ne quindi lei dice per costruire bisogna fare un abuso idrogeologico. Per forza. No, non è che bisogna fare, cioè dovunque si va c'è il rischio di un abuso. Bisogna andare a rivedere rivedere il governo del territorio. Bisogna andare a rivedere il governo del territorio. Le chiedo anche questo, allora. No, forse il professor Berdini lo sa, cioè lei si è dato la risposta, certo. Perché al nord è meglio e al sud no, perché ci sono due Italie, professore. Ci sono due Italie, ci sono due amministrazioni pubbliche, nel caso del nord, per vostra fortuna, visto che trasmettete dalla bella Milano. Beh, ma noi siamo nazionali. Certo, c'è un'amministrazione che sa far rispettare le leggi. Al sud c'è la pacca sulle spalle, perché tanto tutto si tiene, quello che dicevo prima, tanto poi arriverà Pantalone che metterà le fogne, gli acquedotti. Abbiamo condannato l'Italia perché noi non avremo più i soldi, lo ripeto, per portare la pubblica illuminazione, marciapiedi, cioè per far diventare civili le zone abusive. Quindi ci siamo veramente suicidati con questa pseudocultura dell'abusivismo e del condono. Professor Berdini, qui l'assessore ci dice che non poteva fare altrimenti, effettivamente è l'ultimo grado di giudizio, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, sta di fatto che ogni periodicamente siamo a raccontare che contro l'abusivismo sembra che le armi siano spuntate, anche quella delle demolizioni, De Luca qui come primo atto ha detto: come faccio io a demolire 80.000 costruzioni in Campania? Alcune le dovrò sanare per forza, non quelle magari con costruite, non so, nei vincoli di vieta assoluto. Sì, questo c'è nella storia, però la legge dice che non c'è soltanto la demolizione oppure chiudo gli occhi, c'è l'acquisizione al patrimonio immobiliare dello Stato, quindi degli enti. E questo locali. Ce l'ha detto il presidente Realacci, per esempio, che farebbe, certo, farebbe questa perché questa opzione. Perché non lo fanno in Sicilia? Questa è la domanda, evidentemente perché non vogliono scontentare tutto il grande mondo del consenso che poi fa vincere questa. È interessante, assessore Croce, il presidente della Commissione Ambiente Realacci settimana scorsa ci ha detto che la legge prevede l'acquisizione da parte dello Stato di un immobile abusivo e poi nel caso viene riassegnato. Acquisizione da parte dello Stato, perché non lo fate in Sicilia? Si può pensare di farlo, assolutamente, non ho detto, non l'abbiamo fatto, fino ad oggi non l'abbiamo fatto. Lo proponga Crocetta, lo propone la legge. È un'idea. Però è un'idea che politicamente non paga, glielo dico subito. No, ma non è, ma guardi che non è, io non credo sia così, perché a me sembra di aver togliete di fatto, togliete un edificio dalla proprietà di qualcuno, anche se abusivo. Però delle due, questo lo capisco, però delle due l'una, a me sembra che in questi ultimi tre giorni da quando è stata firmata questa circolare, quindi che va in qualche modo, come dite voi, nell'ottica del condono, della sanatoria, non è che abbia pagato da un punto di vista politico, quindi forse acquisire il patrimonio ed evitare questa forma di condono, forse quello pagherà dal punto di vista politico, perché o delle due o una, per forza, non è che può essere che nulla va bene. Sì. Io parto dal presupposto che bisognava uscire da questa situazione stagnante, perché la situazione stagnante non serve a nessuno. Assessore, io le chiedo questo, secondo lei esiste il concetto di un abusivismo di necessità per qualcuno? Qui in Sicilia io non avverto questo concetto di abusivismo di necessità, io non credo che sia una forma di necessità, è solo un modello che si è sviluppato nel centro-sud che ovviamente va combattuto, su questo non c'è ombra di dubbio. La lascio, la ringrazio, però guardi le cifre che anche Berdini le ha detto, sono 800.000, ho detto 770.000. Le verificherò. Lei è l'assessore verificherò. Al territorio, le verifichi, insomma, professor Berdini, sono queste, 800.000. No? Sì, ma per carità, adesso questo è un dato che andrà verificato, non solo di queste 800.000 quanto siano sanabili, perché magari saranno 700.000 che risiedono su vincoli di edificabilità assoluta e quindi sono insanabili. Infatti andrebbero respinte in 448. Professor Berdini, però questa è la cifra, 800.000 le domande. Sì, però anche qua togliamo gli alibi a questa politica che ci ha portato in questo disastro che viviamo. Cioè non è vero che ci sono vincoli di inedificabilità per 70%, come dice l'assessore. I vincoli di inedificabilità saranno per il 10%, gli altri sono vincoli idrogeologici che, come tutti sanno, si superano attraverso un progetto civile, cioè io dimostro che faccio la fognatura e si fa. Quindi cominciamo a diradare il porto delle nebbie, perché il porto delle nebbie è quello che dice: siccome è tutto vincolato, ma quando mai è vincolato il parco dello Stelvio o il parco delle Madonie? Ma non è vincolato l'80% del territorio siciliano, è vincolato ai sensi idrogeologici, e meno male che c'è stato lo Stato che ha messo i vincoli, perché lì ogni volta che piove o frana un'autostrada o muore la gente, cioè sì. Questa è l'Italia. Allora, come sapete, su questo tema batteremo ancora. Intanto vi ringrazio, assessore al territorio della Regione Sicilia, Maurizio Croce, e il professor Paolo Berdini, urbanista. Io consiglio sempre, quando abbiamo ospite, il suo libro Le città fallite, edito da Donzelli, perché lì c'è molto dei concetti che esprime anche qui molto bene. La ringrazio, professor Berdini, ovviamente alla prossima. E dopo la pubblicità noi ci concentreremo con i sindaci di due paesi o città di frontiera, Ventimiglia con la Francia e Tarvisio con l'Austria, per capire il punto di vista loro sull'immigrazione. State ascoltando un programma offerto da Fujitsu World Tour, 23 giugno Milano. Partecipa anche tu. Allora, 8 e 41 minuti, io da giorni parlo di quello che stanno facendo i francesi e tengo una posizione, devo dire, una posizione che sicuramente mi ha attirato molte critiche, a dire che secondo me i francesi non hanno fatto nulla di male nel ripristinare dei controlli, visto che Schengen è ancora in vigore, gli europei possono passare, ma hanno creato una situazione di grande tensione tra Italia e Francia. Ma guardate che anche noi, almeno da ieri, lo facciamo in Italia. Tra l'altro, dei francesi invece, chi è molto arrabbiato, so, con i francesi, è il sindaco di Ventimiglia che torna con noi, è il sindaco Enrico Ioculano. Buongiorno e ben ritrovato, sindaco. Buongiorno. Tra poco buongiorno. Ci racconterà qualcosa, anche perché lì la situazione è ancora difficile. Ma dicevo, in Italia anche noi abbiamo ripristinato dei controlli a Tarvisio, dove saluto il sindaco Renato Carlantoni. Buongiorno, sindaco. Anche buongiorno. Se so che ha preso un aereo, si trova credo nella capitale, a Roma. Buongiorno. Allora, buongiorno. Sindaco, che succede a Tarvisio? È vero, ci sono i controlli di frontiera? Ma hanno rafforzato le forze di polizia, i controlli di frontiera, sono arrivate delle unità dal vicino Veneto, da Padovano, per rafforzare quella che ormai è un'immigrazione costante, continua e quotidiana. Ci sono le pattuglie viste italo-austriache per controllare il territorio. Ovviamente i controlli sono finiti una volta, ma non è stata sospesa Schengen. No, certo, non è stata sospesa Schengen, però sa, come i francesi dicono, e tra poco lo sentiremo da Ventimiglia, anche noi non abbiamo sospeso Schengen, semplicemente vogliamo, se si presenta una persona che non è nella comunità europea, sapere se ha i documenti in regola per passare. Lei, sindaco Carlantoni, come trova questa posizione italiana? Giusta, corretta, sbagliata, esagerata? Ma guarda, io l'ho sentita prima, condivido quanto ha detto lei. Cioè, noi non possiamo continuare a pensare che tutti gli altri paesi siano brutti e cattivi, magari anche disumani, perché usano un po' più di metodologia e forse anche di razionalità nell'applicazione di quello che è Dublino 2, Dublino 1 e quant'altro. Il tema è che se l'Ungheria alza il muro, se la Spagna ha già il muro ed è un paese anche quello a confine col mare, sì. Purtroppo noi non possiamo continuare a credere che il problema non sia anche parzialmente in casa nostra. Ripeto, una richiesta d'asilo per essere completata in Italia ha un percorso di circa un anno e mezzo. E questo è il vero problema. In Austria sono 20 giorni, in Francia mi risulta sono 3-4 mesi. 20 giorni in Austria? Sì, 20 giorni, un mese, 22. Poi no, magari comunque, se viene respinta, c'è la possibilità di fare ricorso in Austria, che lei sa. No. Beh, lei sa che l'organismo dei ricorsi è molto forte in Italia, ma all'estero di solito ci sono le gare di giudizio abbastanza secchi, quindi credo che sia molto diverso. Poi c'è il secondo problema, che è quello del rimpatrio. No? Cioè, nella rotta balcanica, per esempio, che è ben diverso da quella tragedia che sta succedendo in Sicilia, sì. Cioè, non c'è un immigrato che passa per il confine di Tarvisio che si trova nella condizione di avere l'Italia come primo paese in cui chiede richiesta d'asilo, il primo paese che incontra, perché comunque statisticamente e geograficamente anche non possono anche essere che la Bulgaria che l'Ungheria, perché vengono tutti della Serbia, vengono tutti della Turchia, quindi non si capisce per quale motivo, nonostante tutte queste persone risultino all'interno della parte informatica della polizia essere già richiedenti asilo o identificati in Ungheria Bulgaria. Quindi l'Italia si comporta come sta facendo la Francia, l'Italia in questo caso si comporta con la Bulgaria, in questi casi come la Francia si sta comportando con noi sul fronte Ventimiglia, cioè dire perché non devono rimanere lì, perché devono passare il confine. No, diciamo che l'Italia non si comporta così, è questo il problema. Beh, sì, si vorrebbe comportare così da ieri, ecco, a questo punto. Sei da ieri ne sono contento. contento, perché non si è mai capito questa cosa. Non c'è un procedimento di respingimento verso il paese d'origine, che sappia io almeno dall'Italia verso l'estero, ce n'è sempre dall'Austria da altri paesi verso di noi. Dall'Austria verso l'Italia o dalla Francia verso l'Italia. Esatto. E il sindaco Ioculano a Ventimiglia ne sa qualcosa, perché sta gestendo una situazione complicata. Sindaco, rimane complicata? Ci sono ancora sugli scogli queste persone? Sì, rimane complicato, ci sono ancora queste persone sugli scogli, ma soprattutto ce ne sono 350 in stazione, di cui si occupano davvero in pochi. Però sindaco, lei è vero che lei ha detto una frase che ho letto su qualche articolo: se anch'io sapessi come farli passare di là, anche se con metodi, lo farei subito. Sì, l'ho detta come provocazione, assolutamente, ma io dico, questo atteggiamento che ha la Francia, giusto o sbagliato che sia, senza entrare nel mio, ma non si può pensare di lasciare poi una città di 26.000 abitanti a fronteggiare una situazione di questo genere. Ma lei su questo non se la deve prendere con la Francia, ma con lo Stato italiano. E questo è un altro discorso, concordo con lei. Però sulla Francia io dico, faccio un discorso molto, voglio dire, il più razionale possibile da amministratore, nel senso, da una persona che si trova a fronteggiare questo tipo di situazione qua. Da un giorno all'altro bisogna rendersi conto che comunque vada, si va davvero a mettere in una situazione delicata un territorio. Ieri sono venuti anche i sindaci della zona limitrofa della provincia di Imperia, da cui Sanremo, Imperia e Città, a vedere di persona qual è la situazione. Anche loro hanno capito che non si può proseguire così, quindi tra virgolette creando anche una forma di tensione tra le due aree del territorio che sono di paesi che hanno avuto che sono amici, continuano ad avere rapporti di altro tipo, non può ma per esempio la solidarietà e l'amicizia dei comuni limitrofi c'è? Perché stanno lì in stazione? Perché ognuno non li porta, non ne prende un po'? Tanto si è capito che non la passano quella frontiera, non è che possono stare lì. Allora, questa forma di solidarietà c'è, e c'è anche la richiesta, insomma, la disponibilità di aree, di spazi da parte degli altri comuni. Il tema fondamentale è che è difficile convincere queste persone a spostarsi dall'area della persona. Quello che è successo, per esempio, cioè lo spostamento anche a forza, lei come lo ha vissuto? Sì, per carità, è uno sgombero, no? Se no avrebbe un altro nome. Possono essere, sono scene che in un modo o nell'altro toccano, ti fanno riflettere per tanti motivi. Però il tema fondamentale è che un punto di tensione è evidentemente questa immagine che c'è al confine, alla frontiera. Sì. Però ha sentito, sindaco Ioculano, il sindaco di Tarvisio, che l'ascolta, Carlo Antoni, dice bene, cioè che l'Italia abbia ripristinato e rafforzi, e succede da ieri, i controlli alla frontiera, perché non si capisce perché la Francia lo può fare e invece anche noi non possiamo, come dire, se Dublino vale per tutti, dire ai paesi limitrofi tenetevi le persone finché non avete capito se hanno diritto a essere considerati profughi. Beh, la prima riflessione è che allora forse anche l'Italia ha capito che quel sistema, il sistema adottato in Francia, evidentemente funziona, è congruo, e bisognerebbe interrogarsi sul motivo per cui fino a ieri ha detto, insomma, che c'era un atteggiamento poco opportuno dalla Francia. Insomma, noi abbiamo degli atteggiamenti ambivalenti, no? Quando ci fa comodo sì, quando ci fa comodo no. Quindi questo è un primo tema di riflessione. Poi dall'altra parte, insomma, se effettivamente sono metodologie opportune, siamo gli unici a non utilizzarle, a farsi, insomma, di essere meta per tutti, che non c'è un atteggiamento di responsabilità dell'Europa che non si fa carico di questa situazione. Ma lei dice, io capisco la sua frustrazione da sindaco di una città di frontiera, nel senso che però quello che ribadisco è che da 20 anni in Italia, come ho detto anche ieri, manca una politica di gestione di queste situazioni, per cui sono sempre emergenza. E mi ha colpito, per concludere, quello che ci ha detto il sindaco Carlo Antoni, che vorrei che ci ripetesse, lei che l'Austria la conosce, visto che è di due passi, lì ci si mette 20 giorni per fare una esaminare una richiesta di uno che chiede di essere considerato un profugo o un rifugiato politico. In Italia un anno e mezzo, poi c'è il ricorso Glielo confermo, è notizia di sabato del ministro degli interni austriaco, che proprio adduceva la velocità con cui Hauser parla le pratiche, anche la motivazione per cui molte di queste povere persone scelgono l'Austria perché hanno una velocità anche di azione, e quelli che hanno fretta tra i paesi del nord preferiscono quella sede. Però è indubbio che un anno e mezzo rispetto a un mese che dura in Austria, ma per capire, due mesi anche in Francia e in altri paesi, un anno e mezzo non sa nessuno. E io, parlando con queste persone che passano quotidianamente il confine, che parlano quasi tutti correntemente inglese, la motivazione per cui scelgono l'Italia non è mai perché gli piace l'Italia, ma proprio perché sanno che comunque c'è una lungaggine burocratica talmente ampia che permette loro di spaziare sul territorio e quant'altro. Questo è il tema vero, è il tema vero assolutamente anche per me. Cioè l'Italia, come dire, dove le regole sono un po' lasche, dove tutto è fatto così un po' in maniera artigianale, e quindi si producono quelle situazioni come quelle di Ventimiglia che sono assolutamente inaccettabili. Torneremo e vi ringrazio Enrico Ioculano, sindaco di Ventimiglia, e Renato Carlantoni, sindaco di Tarvisio in provincia di Udine. Grazie, il traffico. Siamo qui allora, come sapete, concludiamo con la nostra segreteria telefonica, è lo 02 4652 4492, e a vostra disposizione. Forse Renzi non ha ancora capito una cosa, che quello che gli si sta riversando contro è il mondo del lavoro. Quello che lui ha tolto l'articolo 18, ha fatto licenziare migliaia di persone, invece non ha tolto una lira alla gente che percepisce 10-12 mila euro di pensione al mese, dei cosiddetti politici d'oro, stipendi d'oro. Non ha fatto niente di tutto questo, quindi questo lo porterà alla disfatta sicuramente. Basta, basta, basta. Dopo questa faccio le valigie. Addossare a Renzi e al suo governo la gestione caotica di questa emergenza è pura cattiveria, è pura cattiveria. Il mondo è fatto a scale, c'è chi scende e c'è chi sale, ma il furbo e il gran signore vanno sempre in ascensore. Ma che hanno questi francesi contro la Nutella? Questi che sono dei mangiatori di rane. Hanno dei formaggi che io ho provato e non sono nient'altro che cibo avariato. E visto che gli piacciono tanto le ostriche, ma perché non gli mandiamo per regalo a Ségolène Royal un bel plateau di ostriche, di quelle che crescono sugli scogli a Mururoa? Vabbè, non esageriamo la sfida della Nutella. Bisogna mettere insieme un po' di persone, un po' di italiani, un esercito, e urlare tutti: attaccare! Si potrebbe fare, più forte, più forte! Attaccare! Attaccare! Come urla Silvio Berlusconi all'allenatore del Milan. Vediamo. Attaccare! Sono pronto per allenare il Milan? No, più forte. Vabbè, studio. Attaccare! Domani magari mi verrà meglio, e così scalzo Mihajlovic. Ciao, domani 6:30 siamo qui.